Capitolo 14 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 14. Le bevitrici di sangue. Dalle 7:30 della mattina fino alle 10, la carneficina delle vacche al macello di Poggioreale si compie tra uno strano affollamento di bevitrici di sangue. Dura tra i desideri sanguinosi delle anemiche, delle clorotiche, delle povere fanciulle sbiancate in faccia come la cera. E si accostano alle pallide labbra il bicchiere colmo di quella spumante vin delle vene e bevono d'un fiato, socchiusi gli occhi, la mano che leggermente trema. Intorno seguita la strage, tra un continuo rumore di battiture, di tonfi sordi, di catene che si sciolgono, d'argani che rezzano i cadaveri ancor palpitanti delle povere bestie. Dopo bevuto il caldo sangue, spicciato dalle carote d'incise, si passa una stanzaccia nuda e sporca, e lì si sciacquano le coraggiose bocche femminili e le mani insanguinate. A parte il bene che può fare questo rimedio novello, lo spettacolo è orribile. Appena entrati nel macello, con il visitatore si va accostando allo scannatoio, ode un rapido succedersi di colpi sordi, i quali danno la precisa idea di una gran quantità di tappeti sciorinati e battuti da servitori invisibili a un invisibile terrazzo. I tappeti sono cadaveri ancor palpitanti di vitelli, di vacche, di bovi smisurati. I carnefici, appena caduto l'animale sotto il coltello pugnale di questi toreadores del macello, cominciano a menare di gran colpi di mazze sulle reni e sul ventre delle bestie, perché la pelle se ne stacchi. E mentre uno compie codesta bisogna, un altro si vale d'un mantice per gonfiare l'animale e un altro d'un lungo ferro tondo per frugarne le viscere. Il sangue scorre da ogni parte e non nel pavimento. I garzoni s'accovacciano, radunano con le mani il sangue a pezzi già quasi coagulato, riempiscono scodelle di ferro e queste rovesciano nelle botti preparate in un angolo. Tutto questo è fatto con grandissima rapidità. L'ammazzamento durano tutta la giornata e, dovendo i becchiai sbarazzarsi in un giorno, fin di 800 animali. Le vacche entrano malinconicamente nell'ammazzatoio, piegano fino a terra la testa, annusano il sangue e si volgono intorno. Un primo leggero fremito incosciente increspa loro la pelle, gli occhi grandi e dolci si inumidiscono. Attaccate per le corna ai pali dei cavalletti enormi, alle forche bruttate di sangue rappreso, continua a dondolare la testa inquieta, lasciando mescolare al sangue, per terra, i fili argentei della bava. Ondano tutto umido il muso. Subitamente un carnefice s'accosta. Nascoso il pugnaletto nella destra, guardingo, leva la mano. Il pugnale s'abbassa, colpisce tra le corna, penetra rapidissimo fino al cervello e riappare fumante. Il carnefice dà un balzo e si scosta. La vacca cade, fulminata. Una sola. Breve, convulsione le agita le gambe ed è tutto, è morta. La sua compagna si agita, cerca di liberarsi, leva il capo, sbarra gli occhi, spaventata, ma cade anch'essa sotto l'orribile forca, accanto alla prima. Lì, per lì, comincia la battitura. Cominciano ad agire il soffietto, il ferro tondo, il gran coltello sventratoio. Ma prima, appena l'animale piega le gambe e si rovescia sul dosso, il fornitore di sangue, scalzo, sguazzanti i piedi nel sangue, accosta alla viva fontanella il bicchiere e, correndo, lo porta alla fanciulla anemica. E così beve d'un subito fino all'ultimo gocciolo, e le labbra e il mento le si dipingono d'un rosso fortissimo, e le dita si sporcano, gli anellini luccicano tra il sangue gocciante. La gran parte di queste bevitrici si compone di un elemento assai borghese. Sono modistine, sartine, fioriste e simili. Escono dall'ammazzatoio con le punte delle scarpette, coi tomai alti, macchiati. In Napoli l'anemia serpeggia un po' dappertutto. Ora pensate a queste povere ragazze che fanno una vita sedentaria, in un laboratorio, coi lumi e a gas d'inverno. Pensate a queste giovanette elegantemente vestite che a casa loro dormono in una miserabile sottoscala, senza luce. Pensate alle privazioni, alla mancanza dell'aria, del sole, alla mancanza del cibo sano, della carne che costa troppo, e vi spiegherete la mancanza dei globuli rossi. Ma guardatele quando, nelle prime ore della mattina, queste fanciulle del popolo attraversano Toledo, in cappellino lucente di conterie, vestite come tante marchesine, le calze nere, di seta, lo stivalino verniciato, la punta ricamata d'un moccichino che scappa fuori dalla saccoccia in petto, la mantiglia sul braccio e l'ombrellino in mano. Son quelle che ieri han bevuto, fortemente, il sangue vivo, vivo. Ora guardatele. Hanno due soldi in tasca per la merenda, ma le labbra carezzano il gambo d'un fiore, o sorridono deliziosamente a un giovanotto cocchiere padronato, che sorride e minaccia con la frusta elegante. Fine del capitolo 14. Registrato da Davide Lequila.